Stiamo seguendo allora la vicenda che riguarda la nave Sea-Watch 3 e abbiamo visto insomma anche alcuni sviluppi quest'oggi, ma anche alcune dichiarazioni ieri. Allora, per fare chiarezza dal punto di vista giuridico su appunto questa vicenda, noi siamo al telefono col professor Cesare Pitea, che saluto, buongiorno. Buongiorno. In questi ultimi giorni, in queste ultime ore, qualcuno come il vice premier Di Maio e anche altri hanno sottolineato molto il fatto che la Sea-Watch batta bandiera olandese e quindi deve essere l'Olanda a farsi carico dei naufraghi a bordo. È esattamente così? Allora, questa posizione, diciamo, è una posizione che appare chiaramente strumentale, nel senso che confonde due piani diversi della questione. Allora, dal punto di vista del soccorso immediato, della situazione di fatto che c'è in questo momento, la nave si trova in acque territoriali italiane e, indipendentemente dalla sua bandiera, questo fa sì che attragga la giurisdizione dello Stato italiano quanto al rispetto dei diritti umani delle persone a bordo, ed è questo il fondamento della richiesta, il fondamento giuridico della richiesta al governo italiano di consentire lo sbarco. Una questione di tutela dei diritti umani, la questione della competenza a eventualmente prendersi carico delle domande di asilo che saranno eventualmente presentate da queste persone è una questione che attiene a, diciamo, un altro ordinamento giuridico, che è l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, e che, diciamo, è una questione che si può considerare oggetto di dibattito e che può trovare soluzione nei canali istituzionali che sono previsti dall'ordinamento europeo. In ogni caso, la prima regola da seguire è quella del primo porto sicuro, quindi. Sì, diciamo, in questo momento la questione del primo porto sicuro è in qualche modo superata. Qui c'è un problema diverso e ulteriore, diciamo, rispetto a quello del porto sicuro. Voglio dire, anche ammettendo che non fosse un porto italiano il porto sicuro, anche ammettendolo, cosa che appunto in teoria, in astratto, in questo momento quella nave si trova sotto la giurisdizione italiana e l'Italia ha l'obbligo di garantire i diritti fondamentali delle persone a bordo. Non si può comunque far ricadere sulle persone la violazione, anche ammettendo che ci sia stata, cosa che appunto, se vogliamo, possiamo parlarne, secondo il mio parere non vi è stata, ma anche se ci fosse stata, le conseguenze di questa violazione non potrebbero ricadere sulle persone. È un principio fondamentale. Le persone, l'essere umano non può essere strumentalizzato, è un principio fondamentale della nostra civiltà. Allora, lei ha fatto riferimento anche a una questione che vede agitarsi molto il governo, in particolare il ministro Salvini, e sui quotidiani quest'oggi un'ipotesi di soluzione del problema che veniva indicato era il sequestro della nave per immigrazione, per un'indagine su immigrazione clandestina che consentirebbe comunque lo sbarco. È un modo corretto questo di procedere? No, guardi, qua mi sembra che stiamo ripercorrendo delle strade che sono già state percorse in passato e che hanno portato a una serie di buchi nell'acqua delle procure, o meglio sarebbe meglio dire della procura, che ha perseguito questa tipologia di strategia. Allora, il sequestro della nave per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quando la nave agisce in una situazione di distress per salvare la vita umana, non ha nessun fondamento giuridico e diciamo precedenti simili, insomma, dimostrano che così è. Il governo però obietta che quella nave poteva andare in acque, poteva andare in un porto libico, che sappiamo non essere sicuro, oppure in Tunisia. Allora, guardi, sul discorso del porto libico è chiaramente una posizione insostenibile dal punto di vista giuridico, ma anche, voglio dire, dal punto di vista etico e morale. Io ho avuto modo di leggere le dichiarazioni raccolte a bordo della Sea-Watch da parte di medici che sono saliti a bordo per verificare la situazione, e si tratta di persone che hanno subito delle violenze inaudite in Libia. Quindi soltanto l'idea di dire potevano tornare in Libia vuol dire che non si ha nessun rispetto per la vita umana, per la dignità delle persone. Quindi il discorso Libia lo possiamo, diciamo, togliere dal tavolo molto semplicemente. La Libia è un paese dove avvengono crudelissime violazioni sistematiche dei diritti dei migranti, situazioni che non sono accettabili da nessun punto di vista giuridico, politico, morale. Per quanto riguarda la Tunisia, non risulta, a me non risulta, da quello che ho visto, dai documenti che ho visto, che sia mai stato indicato il porto tunisino come place of safety. Alle richieste di Sea-Watch di indicazione di un porto sicuro è stato risposto soltanto dovete parlare coi libici, i quali non rispondevano peraltro. Quindi ovviamente questa è una questione di fatto che va verificata dati alla mano, ma da quello che io ho potuto vedere e ho potuto leggere degli scambi, diciamo, di comunicazioni, non mi risulta che le capitanerie competenti, né diciamo il centro olandese né l'MRCC di Roma abbiano indicato un porto tunisino come porto di sbarco. Io la ringrazio. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.